Il giudice Grisoli è stato chiamato dal ministro Severino e per una vicenda di una pentita, Lea Garofalo, che fu sciolta nell'acido, secondo l'accusa, perché aveva deciso di rompere gli schemi dell''Ndrangheta, è tutto da rifare. Il processo si stava concludendo. In questo processo, tra l'altro, era, racconta Giuseppe Guastella, per esempio, a pagina 17 del Corriere della Sera, in questo processo c'era stata già anche la drammatica testimonianza della figlia di Lea Garofalo, che aveva deciso con grande difficoltà di andare in aula e parlare in un'udienza che era durata in due udienze, fare una testimonianza drammatica nella quale accusava il suo proprio padre e difendeva la sua madre, dicendo, dissociandosi dall''Ndrangheta. Ovviamente questa ragazza adesso deve vivere protetta, con un nome nuovo, nascosta come testimone di giustizia. Ebbene, tutto da rifare. Dovrà tornare a testimoniare, dovrà subire questo supplizio e non solo. Giuseppe Guastella racconta che ormai certo che per tutto ciò scadranno i termini di custodia cautelare entro luglio 2012. Gli imputati dovranno essere scarcerati, perché entro quella data non ci potrà essere assolutamente una sentenza. Anche La Stampa vi dedica una pagina: pentita uccisa, il giudice trasferito, il processo è da rifare. Il presidente della corte è chiamato al ministero e tra i testimoni da risentire c'è la figlia che accusa il padre. Immaginate in quel contesto di 'Ndrangheta. La figlia di Lea Garofalo, smarrita, sconfortata, dolorata, Denise, 19 anni, quando gliel'hanno detto ieri, ha detto: che senso ha solo riaprire una ferita? Anche il ministro Severino, Paola Severino, che ha chiamato a come capo di gabinetto il suo giudice, questo giudice ha detto: è una vicenda non brutta, mi rendo conto, ma bruttissima, ma inevitabile. E a questa vicenda vi dedica un editoriale Mario Calabresi, il direttore della Stampa. Il titolo è: una figlia due volte vittima, una ragazzina di 19 anni ha passato notti insonne, poi ha raccolto tutto il coraggio che aveva, è entrata in un'aula di tribunale di Milano per testimoniare contro il padre, un boss dell''Ndrangheta. Lo ha fatto per aiutare l'accusa a sostenere che è stato lui a uccidere e sciogliere nell'acido la mamma, colpevole di aver collaborato con la giustizia. Pensava di aver finito, di aver fatto la sua parte, ma ieri le hanno comunicato che è stato tutto inutile. Il processo verrà azzerato, si dovrà ricominciare da capo. Il presidente della corte è stato chiamato a Roma come capo di gabinetto del nuovo ministro. Non riusciva a credere che a guidare quel processo non ci fosse più quel presidente che era stato così attento a difenderla dalle domande trabocchetto, dalle mille furbizie degli avvocati, dagli eccessi di sofferenza. Denise Cosco aveva accettato di testimoniare contro il papà Carlo Cosco, affrontare la paura. Ha dovuto cambiare nome, a vivere nascosta. Si era convinta di avere fiducia nello Stato. Denise dovrà presto tornare in quell'aula un'altra volta, coprirsi di nuovo la testa col cappuccio della felpa, cercare di proteggersi dagli sguardi del padre, degli zii e ricominciare a raccontare. Insomma, Mario Calabresi, una figlia due volte vittima, davvero una storia agghiacciante dell'Italia. Come agghiacciante, come definirla? Questa bisognerebbe darle un premio, scusate, la mega assenteista. Come si fa a lavorare 6 giorni in 9 anni, mandando certificati falsi, dicendo che ha avuto 2 figli senza averli mai avuti? Arrestata ieri, ma in 9 anni, 6 giorni di lavoro, 9 anni. Peter Bescapè, io leggo il labiale, ha detto: è la numero uno. 6 giorni di lavoro in 9 anni. È stata arrestata ieri dal NAS, dai carabinieri del NAS. Vabbè, complimenti per chiudere a Roberto Vecchioni, scelto per il Forum della Cultura di Napoli. Ha chiesto 220.000 euro in un anno. La mia immagine costa, ha detto. Vecchioni trova l'oro a Napoli, 220.000 euro e neppure canta, così titola Libero. E anche il giornale: Vecchioni e la stecca di Napoli, farà cultura per 220.000 euro. Complimenti anche al Barcellona, ebbene sì, mi scrivono tutti, ma perché non parla oggi della Gazzetta dello Sport? Ma è stata una partita spettacolare, nella quale ha vinto la squadra più forte del mondo, indubitabilmente. Che dobbiamo dire? Complimenti al Barcellona. Grande Milan, troppo Barça. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, il giornale radio.